sobre los dos. Voy a partir, lo ya capito, se estanca de mí. Si tú lo vuoi, ti lascio andare, ma voglio sentirlo dire da te. Se te ne vai, Aline, non so cosa farò. Se te ne vai, Aline, non so come vivrò. La libertà non ti spaventa, però stai attenta a quello che fai. La vita, sai, si vive in due, a spese tue, lo capirai. Se te ne vai, e tornerai, Aline, lo so che tornerai. Io resto qui, ti guardo partire, che posso fare, ti aspetterò. Giudica tu, Aline, amo oppure no, più di così, Aline, amare non si può, più di così, Aline, amare non si può, più di così.